Il primo giorno, la prima volta, che emozione nella scuola. Al primo banco, compagni nuovi, che felicità. Il sentiero è più lungo però, attraversarlo io dovrò, camminando per i sentieri della scuola, una meta così raggiungere potrò, camminando per i sentieri della scuola, io felice sì, felice io sarò. Il primo giorno, la prima volta, alle scuole medie. 3 anni dopo, anche al liceo, che felicità. Il sentiero è più lungo però, e terminarlo io dovrò, camminando per i sentieri della scuola, una meta così raggiungere potrò, camminando per i sentieri della scuola, io felice sì, felice io sarò, camminando per i sentieri della scuola. Camminando per i sentieri della scuola, io felice sì, felice io sarò.